Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray. Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 29, credo, non l'ho controllato. Io sono Salvatore Ioppolo, ma soprattutto c'è con me l'uomo del momento, Matteo Rubinato. Ciao Matt. Ciao Sal. Uno degli uomini del momento, diciamo, senza la voce solida, perché la voce è rimasta a Green Bay, quindi un tono molto più basso, e in tre giorni deve ancora tornarmi, quindi vabbè, ne è valsa la pena. Quindi. Ah, te lo credo. E allora, sei tornato quando? Ieri? Sono tornato ieri, siamo tornati vincitori ieri con Alessandro e Giancarlo. Quindi. Ecco, ci avete ingolosito con tutte le foto, i video che avete postato ultimamente nei giorni scorsi. E, ci vuoi raccontare un po' com'è andato, com'è stato il viaggio? Guarda, a parte la goduria suprema della vittoria, che noi godevamo da casa sul divano, per cui figurati voi. Guarda, secondo me, e insomma Giancarlo e Alessandro sono assolutamente d'accordo con me, neanche se lo pianificavamo nei minimi dettagli, veniva fuori come è venuto fuori, perché siamo riusciti a far di tutto, voglio dire, è venuto fuori... cioè, per dirti, l'apice intervista a bordo campo a Goodell. Cioè, noi siamo a bordo campo che tra l'altro volevamo tornare nei tunnel perché volevamo andare nei posti, perché Ale è finito in tribuna stampa ovviamente come giornalista, io e Giancarlo abbiamo preso il biglietto, quindi noi volevamo andare negli spalti, e ci passa Goodell davanti e Ale ha la prontezza di fermarlo e di dirgli guarda siamo dall'Italia, e gli facciamo un'intervista al volo, quindi per dirti, questo cioè il commissioner dell'NFL, insomma, penso sia un colpaccio della Madonna. Poi, non so, ci sono le interviste a fine partita ai giocatori appena rientrati dal campo, giocatori che tra l'altro erano così come mamma li ha fatti praticamente, quindi è clamoroso, di quelle proboscide che giravano, che non ti dico. Infatti per Alonso Harris non è servito il microfono, ce l'aveva già lui, quindi. Sì, guarda, lui non l'ha giocato, che io non sapevo neanche fosse inattivo, perché gli inattivi non neanche lì, non l'avevo neanche vista la lista degli inattivi, però sicuramente... che sono naturali, che sono notevoli. Poi per dire, siamo stati quasi lavati dai capelli di Clay, praticamente. Clay è appena uscito dalla doccia, attorniato da fotografi, da giornalisti che vogliono fargli le domande. E poi sì, dopo abbiamo bellissimo, quindi c'è un'esperienza surreale. Poi vedrete nel video sicuramente che uscirà il tailgate, abbiamo trovato i tifosi, praticamente quelli più famosi, più pittoreschi, ok? Da Sam Vince a Wayne Sargent o Steve Dioner Tate, questa gente qui, insomma. E poi il fatto di quando dicevi che eri italiano, e c'è una domanda tra l'altro di quelle che ci hanno posto, quando dicevano che eri italiano e tu gli dici sì, siamo dall'Italia, apposta venuti per vedere questa partita, diventavi il loro idolo in pratica. No, un'esperienza bellissima, purtroppo che non si può rifare ogni domenica, ok? Però dai, in tal maniera non so, non penso sarà possibile uscire ancora una cosa del genere, però da tornarci sicuramente. Io c'ero stato nel 2009, tornarci da distanza di 6 anni è stato bellissimo. Guarda. Per Alessandro era la prima volta, vero? Per Alessandro era la prima volta, per Giancarlo è stata la terza volta. La prima è stata nel 2004-2005, una partita in cui abbiamo un season opener contro i Bears che ci hanno dato delle mazzate terribili, ma in un'epoca, non parliamo di 50 anni fa, 10 anni fa, dove magari non c'era Facebook, non c'erano questi forum, non c'era tantissima informazione in genere. Lui è partito dall'Italia da solo e infatti sono rimasto così a bocca aperta, ma va, un grande praticamente. No, adesso infatti ci saranno altri che andranno alle prossime partite, volentieri, se avete domande, chiedete tutto quello che volete. Per quanto riguarda qualcuno ha chiesto quanto la spesa ovviamente non è una spesa irrisoria, ok, ma non è neanche una spesa di quelle che cambiano la vita, insomma. Io stavo cercando di fare due conti ma oggi non ce l'ho fatta, ok. Allora lascio fuori quello che è il Pro Shop, ok, perché ovviamente quella è un'associazione a delinquere, perché è impossibile entrare e non comprare, ok. Abbiamo provato a fare un conto stimato di quello che può fare il Pro Shop nella giornata di sabato, una cifra assurda, se mai arrivano a $500,000 al giorno. Che vero dire? Sì, cosa incredibile. Più se ci aggiungi poi il pub e quello che c'è di collaterale, il tour dello stadio, il tour dell'Hall of Fame, vengono cifre proprio a 6 zeri, secondo me arrivano tranquillamente. E, escludendo il pro shop, appunto, mettendo 600-700 euro di volo, che è più o meno quello che abbiamo pagato tutti quanti noi, ci vogliono almeno 150 euro di biglietto, che poi possono variare tra magari dai 100 ai 300, poi dipende dal settore, dalla partita. Per quanto riguarda dormire, dipende sempre in quanti siete, perché ovviamente se si va in uno, in due, in tre, le spese si dividono. Noi non abbiamo speso tanto, avremmo speso su circa 650 euro a testa di hotel per 4 notti. Il mangiare è il minore dei mali. Quindi secondo me una cifra complessiva sui 1200 euro ci sarà. Vai, vieni, tranquillamente. Tutto compreso, sì. Tutto compreso. Ovvio che se poi vuoi spendere 700 dollari al pro shop, sono affari tuoi, ovviamente. Quindi, e non è difficile spendere, il problema è quello lì, che non è assolutamente difficile spenderli. Quindi, però questa cifra qua ci stai benissimo. Da fare a Green Bay, noi siamo arrivati a Green Bay nella giornata del venerdì, okay, perché il giovedì ci siamo fermati a Chicago, nella terra del nemico, e siamo arrivati il venerdì pomeriggio a Green Bay, abbiamo mangiato nel ristorante, quello nel Night Inn in Kitchen and Tub, e abbiamo fatto lo tour dello stadio, ok, l'Hall of Fame abbiamo visto, e in realtà il sabato ho detto, beh, andiamo a vedere in centro Green Bay, in centro Green Bay non c'è assolutamente niente. Cioè, è desolante in un certo punto di vista, a parte qualche luogo storico legato appunto alla squadra, alla nascita della storia, alla nascita della squadra e le sue tappe storiche, che c'è qualche targa commemorativa, insomma qualche statua, non c'è assolutamente niente. Noi siamo arrivati allo stadio, al vecchio City Stadium, e sì, è un campo dove gioca l'high school, l'East Green Bay High School, ok, ma più di una targa non c'è nient'altro, ok. E c'è una bella birreria in centro, se si vuole, quello sì, ce ne sono un paio forse, no, non è che ci sia molto altro, anzi. Noi venerdì sera ne abbiamo approfittato, siamo andati a vedere una partita di high school, era a Schwabenham contro Bayport, e dà un fascino tutto loro, insomma, quindi Friday è un'esperienza Nights, tanta roba. Esattamente, l'hai detto te. E tutto qua. Io due domande che non ti ho ancora fatto, neanche quando ci siamo sentiti prima, sono: uno, come si mangia nella Brett Favre Steakhouse, e due, la fauna locale? Allora, prima domanda, molto bene, sinceramente. Noi abbiamo mangiato il giorno della partita, che noi eravamo davanti allo stadio molto presto, ok, sinceramente, poi andiamo a fare una tappa alla Brett Favre Steakhouse, perché comunque volevamo mangiare in maniera tranquilla, da seduti. Io ho letto dei commenti dove si dice che era costosa e che non si mangiava molto bene. Alla fine abbiamo mangiato sandwich, hamburger, no, Giancarlo ha preso dei calamari fritti. Noi abbiamo mangiato bene e speso anche relativamente poco. Per dirti, in tre abbiamo speso con la mancia 66 dollari, in tre. Quindi non è, ripeto, ho un panino che praticamente mi ha saziato per tutta la giornata. E per saziare te. Esatto. Quindi è molto, è anche bello il posto, tra l'altro, quindi è abbastanza elegante, quindi è bello. Per dire, abbiamo speso quasi la stessa cifra per mangiare della Green Bay Distillery, si chiama, che è praticamente a distanza di 50 metri, anche perché tutto intorno allo stadio si risolve praticamente al momento in 4-5 locali, non è che ne siamo di più. Abbiamo speso sui 55 dollari mangiando molto male, insomma. E abbiamo mangiato molto bene, dove appunto ho detto, nella Green Bay Downtown, si chiama Eiger Master Park. Okay. E lì abbiamo mangiato molto molto bene, e quindi ti ripeto, mangiare e bere non è una spesa sicuramente eccessiva. Per quanto riguarda la fauna locale, io la farei la domanda, la farei ad Alessandro, che ha avuto molto successo, ha riscosso molto successo nella fauna locale, però non è, insomma, un'esperienza da raccontare in giro, quindi, perché la fauna locale lascia un po' a desiderare, diciamo che è un posto dove, insomma, la moglie è magari ristia a mandarti, dopo che ha visto la fauna locale non ha nessun problema ma a lasciarti andare, anzi, quindi c'è qualche eccezione per fortuna, però non sono tante, Diciamo che vai a Green Bay non è la prima cosa che mettono nelle guide, secondo me, quella cosa lì, quindi vabbè. Va bene, dai, cosa dici? Parliamo un po' della partita che avete visto. Parliamo un po' della partita, sì, dai, io voglio rivederla appena possibile, quindi partita che non l'ho riguardata neanche io. Ma tu era di notte, per me forse ti ha sballato un po', ma ha sballato ancora di più di tutto, quindi punto di vista proprio tecnico, non, no, l'hai vista sicuramente meglio te di me, quindi. Poi tra l'altro, se ti ricordi, ieri ti ho detto, quando mi hai detto che tu sei senza voce, ti ho detto sono senza voce anch'io, perché tutte le sigarette che ho fumato quella sera, da quanto ero nervoso, non ho perso la voce per via delle urla, però per le sigarette, per il nervosismo sì. No, ma in realtà noi abbiamo cominciato molto bene, perché siamo andati avanti 10-0, poi 10-3 perché è stato quel palo gol di Auska, ok? E poi ho finito, i primi due quarti li abbiamo giocati discretamente bene, sinceramente. Siamo andati 13-3 negli spogliatoi, mi pare, quindi. Sì. C'è stato quel touchdown chiamato in di James Jones, molto al limite, però probabilmente giustamente annullato. Sì, la chiappa era giù. Esatto, purtroppo. E poi nel terzo quarto ci hanno, tra virgolette, massacrato con la read option, perché massacrato, possiamo dirlo. E siamo andati sotto 17-3, abbiamo fatto il 17-16, noi, ok? E poi abbiamo dominato, diciamo, fino alla fine. Mm-hmm. Ma poi tra l'altro su questa cosa qua della read option, ok, noi effettivamente non l'abbiamo saputa difendere, però Seattle in realtà non vuole più farla questa read option, cioè è stata una mossa estrema che hanno provato nel momento in cui non riuscivano a fare niente sulle corse, sì, con Lynch. E nei passaggi con Baldwin o Jimmy Graham, che è stato un non fattore assoluto. Mm-hmm. E molto probabilmente le yard che ha conquistato nella rip dosh, sì, quella roba lì, insomma, è solo venuto perché appunto ci siamo, a parte concentrarci su Lynch, che è stato meno di un non fattore, sul fatto che appunto abbiamo coperto molto bene Jimmy Graham, e quindi magari le 60, che poi ha corso 60-70 yard lì, Wilson non è che abbia corso 160-170 yard. Ovvio che il quarterback che paghi 20 milioni di dollari all'anno, farlo correre non è che sia tua grossa intenzione, secondo me, quindi. Sì, poi è bastato quel drive finito col touchdown di Richard Rodgers all'inizio del quarto quarto perché loro abbandonassero anche quello, perché dovevano lanciare per recuperare il gap il prima possibile. Infatti io leggevo oggi, dopo il 10-0, c'è stato un drive dove sono arrivati al field goal convertendo un terzo e 20, un terzo e 15, mi pare, dove se l'è perso Casey Howard, mi pare, Baldwin, e hanno chiuso quel down lì. Se per caso non chiudono quel down lì, che tra l'altro erano molto indietro, e riusciamo magari ad andare avanti di 2-3 possessi, magari 13-0, 17-0, la partita, allora le option praticamente non possono giocare, perché ovviamente non hanno il tempo per farla. Infatti, guarda, noi eravamo a fine terzo quarto, ero con Giancarlo ed eravamo, mi pare, già 17-16, mi pare fossimo. E non eravamo in un momento proprio molto, molto esaltante dal nostro attacco, anche se aveva perso Lessi, aveva Adams già mentre a servizio, Bulaga non aveva giocato, quindi insomma eravamo un po' rattoppati, secondo me. E tutto sommato, anche se incazzati dal fatto del fatto della read option, che non avevamo, fermavamo, sembrava che non riuscissimo più a fermarsi Seattle. Tutto sommato, alla fine del terzo quarto avevamo concesso 17 punti a Seattle, cioè non avevamo concesso delle cose clamorose. Il problema è che ne avevamo fatti solo 16 davanti noi, pur con appunto il fatto di non avere tutte le nostre armi. Il problema era l'attacco, che non aveva fatto molto poco. Poi, a fatalità, il drive successivo è stato un drive proprio da manuale del football, ok? Secondo me è stato bellissimo. Ha cominciato ha messo Cobb nel backfield e loro non sapevano di più da che parte muoversi. E ha cominciato a utilizzare Montgomery. Montgomery ha chiuso un terzo e 10, mi pare, in red zone. Mi pare fossimo già clamoroso lì, secondo me. Non so quante ricezioni abbiamo fatto da Montgomery, ma ne ha fatto sicuramente 4-5. Sì, mi pare abbia fatto 4 per 35 yard, qualcosa così, insomma. Però tutto in quel drive là, secondo me, quindi a parte la pass interference che ha costretto nel secondo quarto contro Earl Thomas e Richard Sherman, che ci ha permesso poi di arrivare in vantaggio dal field goal. Ha cominciato Rodgers a prendere come bersaglio anche lui, prima non lo guardava mai. Secondo me è stato un drive bellissimo, e se ti ricordi ne parlavamo anche prima dell'infortunio di Jordy, purtroppo, della possibilità di avere un attacco in campo contemporaneamente Cobb e Montgomery, che potessero essere o tutti e due o uno dei due nel backfield, uscire dal backfield, che poneva dei problemi assurdi per le difese avversarie, che non avrebbero saputo cosa fare, come tenere, insomma, questi due giocatori che sono bruciati. Verissimo. Purtroppo il piano è un po' cambiato rispetto a quello, perché appunto purtroppo Jordy non c'è, quindi questa minaccia della bomba downfield probabilmente ancora non c'è. Chissà che non venga fuori con Adams fra un po'. Magari viene fuori lunedì contro Kansas City, magari. Anche perché non aveva grosso tempo nella tasca Rodgers domenica sera. La linea offensiva, i tre centrali sono stati insomma, perfetti, no? Non ho sbagliato niente. Linsley, Seedorn e Lang sono stati insomma, clamorosamente bravi. Bakhtiari, insomma, male, però con riserva. E Barkley, tutto sommato, sufficiente, secondo me, vuol dire, no. Per come si pensava potesse essere, secondo me è sufficiente. Bakhtiari male, secondo me, perché comunque è un giocatore su cui stai cercando di impostare un certo tipo di discorso. Però cercavo di sentire qualcuno oggi che diceva del fatto che Seattle cercava appunto di usare la rapidità che ha il loro defensive lineman, ok? E cercava quindi di aggirare sia i due tackle nostri, ok? E quindi loro gli lasciassero come prese senso di penetrare controllandoli, così Rodgers aveva lo spazio per uscire dalla tasca. Non Sì, so oddio, se se sia fosse una vero. cosa voluta o no, non lo so. Sta di fatto che il risultato è stato quello perché alla fine, come ho scritto anche sul gruppo, mi pare, i due tackle in pratica indietreggiavano, venivano spinti indietro 10 metri dopo 2 secondi Sì, dallo snap, mentre esatto. invece il muro davanti dei tre, Linsley e le due guardie, Seaton e Lang, rimaneva fermo e immobile e si creavano due corridoi a destra e a sinistra e Rodgers bastava che facesse un passo in avanti nella tasca e poi svoltasse per essere libero. Ecco, infatti, Lui è quindi. stato perfetto perché comunque è stato in movimento per tutta la partita, nonostante le 16 pressure, insomma, e per cui vabbè, non si scopre certo adesso che lui sia un mago in queste cose. Se non si scopre oggi è che sia un mago, insomma, quindi, che sia Esatto. bravo a fare il quarterback, quindi no, poi vederlo dal vivo e con due gambe che funzionano è tanta roba, secondo Allucinante, me. sì, immagino. Grande prova di Starks Bravo, che... Io bravo. sinceramente non avrei dato un nichelino quando ho visto che lei si usciva. Pensavo anche che abbandonassero un po' le corse, mentre invece mi è piaciuto Capers e il fatto che abbia comunque continuato con le corse. Clemens, Cosa ho detto, Capers? Capers, sì, esatto. Vabbè, pardon. Ah, Vabbè, mi è ok. piaciuto anche Capers, per cui poi ne parliamo, dai. No, infatti, assolutamente, d'accordissimo con te, d'accordissimo con te. E per E quanto riguarda... per le male lingue che dicevano mancava Cancelo, a loro sì, però a noi manca Nelson dall'inizio, Bulaga e poi abbiamo perso Lacy Adams durante la partita, quindi Esatto. sto paio di ciufoli di Cancelo, quindi tenetevi Cancelo, ma datemi questi quattro giocatori a me, vediamo che ce la giochiamo lo stesso alla fine. No, poi tra l'altro, tornando a Ty Montgomery, mi è piaciuto un sacco il fatto che, a parte la capacità di rompere i placcaggi, bloccava downfield, praticamente tutto quello che si diceva di lui, ossia che sia un giocatore dinamico, forte, Se insomma, queste sono le premesse, sì, secondo me ci divertiremo, dai, speriamo esatto. bene. Se queste sono le premesse, insomma, speriamo bene. Insomma, Adams l'anno scorso, la seconda, non aveva fatto queste cose qui, quindi Infatti. ecco. Adesso, insomma, speriamo, dai. Dietro, a Ecco. parte un grandissimo BJ Raji, che dal vivo e anzi, da 2 centimetri di lui, a parte il fatto che era vestito peggio di me con la felpa rovescia, aveva una camicia che te la spiego. Non è per niente un ciccionazzo, un pisellone di quelli, anzi, cioè, beh, ovvio che non è magro, però non ha una stazza così imponente come pensavo. È Mi ha che c'ha fatto il più faccione e sembra impressione, più grasso, sì, è forse. vero, mi ha fatto impressione dal vivo TJ Lang, visto da vicino. TJ Lang è una bestia della Madonna, secondo me. No, sì, in difesa, linea difensiva ottima. Mi sono piaciuti molto anche per quanto riguarda gli outside linebacker Perry, un placcaggio praticamente quasi in campo aperto che ha No, salvato ha Pepe. salvato. Io c'eravamo dietro di Giancarlo. Avevamo visto De Lynch in end zone, noi. Sì, infatti aveva davanti tutto il campo Non c'era libero. nessuna safety dietro, te lo confermo. Nessuna safety dietro. Piaciuto anche Neil, vabbè, Elliott in 10 snap ha cambiato la partita, per cui cioè, ha giocato 10 snap in difesa e l'ha cambiata completamente col Sì, ma sai che li ha pick giocati perché? and roll. Perché si è fatto male Lacy, che Esatto, e ha quindi ha portato dovuto richiamare Starks. Starks. Vai, dillo tu. Starks negli special team, ok? Che ha preso il posto di mamma mia, aspetta, finisci la tech che magari Allora, questo te lo aspetta, ricordi facciamo meglio. da capo. Allora, Lacy fuori, per cui Starks in attacco. Il Sì, posto di esatto. Starks sugli special teams è stato preso da Dunbar, da Molumba. Molumba, esatto, che è partito titolare, mi pareva fosse partito tra gli starter addirittura, magari sbaglio, ma sicuramente nelle prime Lo so, rotazioni comunque sì, era il è entrato primo a entrare subito. di sicuro, sì. Per Esatto. cui il posto poi di Molumba è stato preso in difesa da Elliott, che ha fatto quei 10 snap. Dovrebbe essere così la Esatto. catena. Ha Sì, esatto, dovrebbe essere questa. confermato tutto ciò che si diceva di lui da inizio agosto ad oggi, cioè il fatto che abbia una velocità, una forza, la capacità di penetrare nel backfield, eccetera, va bene. Cosa che in realtà non ha dimostrato stavolta, perché ha dimostrato più che altro l'intelligenza di capire dove andava il pallone per quanto riguarda lo screen che ha intercettato una mano, bellissimo. E poi il fatto di aver inseguito Fred Jackson dopo che aveva ricevuto il pallone, fregandoglielo così, insomma, tanta roba. No, no, tanta roba, assolutamente sì, assolutamente. Chissà che non sia il nostro James Harrison, non sarebbe male, eh. Ci leverebbe un po' di gatto da pelare dietro, secondo Sì. me. Poi confermi anche tu che ha giocato una gran partita, non ha sbagliato un placcaggio stavolta? Guarda, non me ne sono così accorto dal vivo, però ci è piaciuto anche Barnett, sembrava la difesa diversa con Barnett in campo. Mi è piaciuto Shields, però dammi te la conferma. Clay Matthews praticamente solamente dei linebacker, esclusivamente dei linebacker, e tra l'altro ho avuto l'impressione che solamente tra fine del terzo quarto e inizio quarto abbiamo cominciato a mandarli in blitz o comunque a fare dei blitz, perché prima insomma, non l'abbiamo fatto, nessuno l'avevamo fatto. Dal vivo questa è stata la mia impressione. Peppers quasi anonimo, Sì, ok, e anche non se per alla fine ha questo ne ho fatto un male, sec, se sì, non sbaglio. ecco, non per questo ne ho male. Peppers, ragazzi, c'è una maestosità, cioè non ci sta nell'armadio lui. Lui si cambia fuori perché non ci sta. Non avete idea quanto grande possa essere Julius Peppers. Ecco cosa volevo dire. Primo touchdown nostro, primo possesso, andiamo in kick-off nostro, ok? Che poi c'è stata una penalità, un holding, e Jack Ryan mi ha fatto un tackle della Sì, Madonna sì, a una sì, sì. mano con subendo l'holding, fermando praticamente il locket. È impressionante, insomma. Io spero che stia migliorando, stia sembrando il playbook, perché lasciarlo fuori, non so, mi pare strano. Sì, secondo me fanno come cercano di fare il più possibile, ossia farli entrare con calma. Poi non lo Esatto. so, E A livello poi di special team di sicuro sta facendo il suo sì. dalla prima di pre-season in realtà. Sì. E special team comunque perfetti, Sì, con la chicca di Mason Crosby. che è diventato l'all-time leading scorer dei Packers con 1057 punti, ha superato Longwell di un paio di punti, credo. Ecco, perfetto, molto bene. Tanta roba. Molto bene. Cioè, partita che comunque che se ne dica ha levato una bella scimmia dalle spalle, ovvio che siamo solamente 2-0 all'inizio della stagione, ok? Poi intanto Seattle 0-2 e 0 e due sconfitte in NFC. Però guarda, nell'intervista a Lang, e ho chiesto ad Alessandro di riportarlo quando farà il video di tutto quanto, ha detto una grandissima cosa, Lang: "We finally beat that guy, this guy." Quindi ci sta, loro ce l'avevano ben segnata questa data, ok? Dopo tutte le dichiarazioni di apparenza, ok, ci stanno, però secondo me sono contenti, molto contenti loro. Sì, è una vittoria che fa soprattutto morale, al di là del fatto che sia importante vincere contro rivali per il primo o secondo seed, ti togli questa cosa qua dalle scatole, abbiamo Sì, battuto Seattle, vaffanculo. e poi Cioè. hai vinto sapendo che puoi giocare molto meglio e sapendo che ti ritorneranno altri giocatori. Quindi no, hai giocato, cioè non hai fatto la partita perfetta, anzi, è molto migliorabile la prestazione, secondo me. Quindi è positiva soprattutto per quello. Mi dicono, ecco, io non l'ho visto, non me ne sono reso conto, di un Mike McCarthy infuocato sulla sideline, finalmente. Non E ci ho questo fatto non me lo, caso, ecco, sinceramente. non mi sono reso conto. Beh, guarda, su Capper questa cosa si può dire poco su questa partita. Gli ho toccato la spalla se ti interessa, però va bene, non so se conta. Ecco, Prima della partita? fino Allora è alla per partita, quello, gli hai dato lui l'introduzione. stava salendo come noi e mi pare di parte gli ho fatto pacca sulla spalla. Quindi no. No, comunque, a proposito, bravo McCarthy a lanciare immediatamente la flag rossa su quei 12 uomini in Sì, campo. che poi erano 13, cacchio, Sì. ok. E però meno bravo Beccardi, che alla fine del primo quarto avevamo già giocato tutti e tre i timeout. Quindi tiratina di orecchie su quella cosa lì, insomma. Sì. Probabilmente, insomma, quelli poteva gestirlo un po' meglio, però. Anche se magari non è tutta colpa di Beccardi lì, però vabbè, insomma, voglio dire. Comunque, dai, Ci andata sta, bene, dai, va andata bene, bene. ci sta. Allora, cosa Ci sta. facciamo? Svoltiamo pagina? Beh, a questo punto sì, siamo mercoledì e quindi bisogna girare pagina. Allora, intanto alcuni rapidi aggiornamenti, perché intanto oggi non si alleneranno i Packers perché avranno un giorno in più di riposo, dato che la prossima partita non sarà di domenica ma di lunedì. Boyd purtroppo è finito in injury reserve. Ah, è out for season, ecco, non mi Sì. mancava questo, ok? E al suo posto è stato firmato dalla practice squad dei Cowboys Joe Thomas, che era con noi nel training camp. No. A noi il left tackle dei Browns. Ah, ok, purtroppo no, non era nella practice squad dei Cowboys lui. vabbè. Ah, ok. Quindi il nostro Joe Thomas a me piaceva, sinceramente. Infatti, speravo che venisse firmato almeno nella practice squad dopo i tagli per arrivare ai 53. Comunque, poi era finito ai Cowboys. È stato firmato, quindi abbiamo un inside linebacker in più che va a rimpolpare il reparto che è rimasto un po' sguarnito. Già era sguarnito di suo in realtà. Poi è stato, insomma, ancora di più decimato dopo l'infortunio season ending injury a Barrington e ha preso il numero 48, non mi ricordo se avesse già quello anche prima, sinceramente. Kansas City Chiefs, partita lunedì notte, Monday night. Secondo me è una partita bastarda questa qua, eh. Guarda, io avevo pronosticato una sconfitta all'inizio, Anch'io. eh? Io avevo pronosticato una sconfitta, però pensavo si giocasse a Kansas City, sinceramente, invece giochiamo in casa nostra. Secondo me è una partita difficile, molto difficile, dove loro sono molto bravi, dove tra l'altro c'è chi abbiamo male, perché loro sono fortissimi negli outside linebacker, quindi soffriremo anche lì, ok? Davanti abbiamo, secondo me, contro il running più forte che c'è nella Lega, secondo me, Jamal Charles, che poi è un misto tra Marshall Lynch e Forte, quindi secondo me lo soffriremo. Per fortuna Alex Smith, che noi abbiamo sofferto quando era a San Francisco, ma aveva degli interpreti diversi a cui lanciare e una linea di offensiva diversa, ok? Alex Smith non lo soffriremo tanto come quella volta lì, ok? E anzi magari ci permetterà, appunto, non essendo una minaccia sul profondo, di giocare molto più corti e quindi cercare magari di controllare anche le corse, secondo me. Sì, perché poi Sarà loro una in partita. realtà una minaccia profonda ce l'avrebbero che è McClain, che è arrivato dagli Eagles, Sì, però Smith non ha questo gran braccione che possa, per cui. infatti. Però la partita sarà molto, molto difficile, secondo me. E non sono per assolutamente scaramantico, proprio lo penso. Non mi ricordo se l'hai appena detto o no, comunque c'è anche Kelce, questo tight end molto No, non l'ho forte, detto, ok? l'hai detto te, Quindi. che ha fatto già 2 o 3 touchdown, tra l'altro, in questa Sì, stagione. loro giocano abbastanza chiusi, nel senso soprattutto sui primi down, ho guardato le prime due partite loro, loro sono 1-1, hanno vinto a casa dei Texans 27-20, mi pare, Sì, e dopo e hanno perso in maniera rocambolesca. hanno buttato via la partita. Lì non l'ho Esatto. vista, ho visto un paio di cose. Mi pare abbiamo buttato via la partita contro Denver. Mi Sì, pare. con Peyton Manning che aveva fatto fino a un certo punto una partita orribile, poi nel quarto quarto mi pare ha cominciato a giocare come sa dalla shotgun. Sono andati avanti, dopodiché un fumble di Jamal Charles nelle 20 è stato riportato in touchdown per la vittoria definitiva. Erano pari, altrimenti magari mancava un minuto, credo, sarebbero andati supplementari. Esatto, E esatto. sono una squadra che appunto gioca con formazioni abbastanza chiuse, quindi con due tight end per o corsi di Jamal Charles o play action per i tight end. Questo tight end Kelce ha posto abbastanza forte e probabilmente lo soffriremo dato che i tight end li soffriamo. O li soffrivamo, vedi tu. Non Perché li soffriamo, parliamo. una rondine non fa primavera, Esatto, mi hai diciamo. anticipato. Esatto. Comunque, molti passaggi corti, screen, crossing routes, come volete dirlo voi, per i tight end, giocano molto sul corto, insomma, 5-10 yard, non di più. E sono, sì, secondo me, rappresentano una minaccia abbastanza seria, sia in attacco che in difesa, dove appunto giocano con una 3-4 e hanno questi due outside linebacker. Oddio, Tamba lì non è che mi piace più di tanto, però hanno questo Houston che ha fatto tipo 22 sack l'anno scorso, Sì, una passa. bestia praticamente, esatto, una bestia messa lì. Quindi vediamo. No, no, io lo ripeto, sarà una partita molto, molto difficile. Spero di sbagliarmi perché magari diventa più facile e soffriremo meno, però non penso, sinceramente. Poi, tra l'altro, a differenza di quanto ha fatto Seattle con noi, correggimi se sbaglio, loro ogni tanto blizzano. Seattle penso che non abbia blizzato mai, in realtà. Insomma, Seattle, cioè, basa la difesa sul fatto di creare pressioni con i quattro davanti, che sono molto forti, e poi ragazzi, dietro hanno i due linebacker che sono Wagner, che sono di una velocità spaventosa, e Earl Thomas, che fa paura visto dal vivo, eh. È basso e piccolo perché non è grande, però ragazzi, c'è una potenza clamorosa. rimangono dei pezzi di merda, sono antipatici come praticamente il tuo peggior amico delle elementari, praticamente. Sono, ma proprio anche dal campo, proprio li vedi proprio che cercano proprio di fomentare, cercano di stuzzicare gli spettatori, proprio non si fanno male per niente. Stanno nel personaggio, quindi esatto, stavo per dire quello. Ecco, quindi, però questi due giocatori fanno paura. Sì, no, io stavo pensando che comunque se i nostri tackle giocano come hanno giocato e ci metti in mezzo anche un blitz, potrebbe cominciare ad essere una partita lunga, insomma, per Aaron, perché nel senso avrebbe molta meno libertà nel muoversi. Poi sappiamo che in realtà è molto bravo anche quando viene blitzato Aaron Rodgers, però per esempio nella partita contro Denver, che te non hai visto, hanno blizzato l'anima di Peyton Manning, che infatti quando era blizzato non ci capiva una mazza, soprattutto nel primo tempo. E io ovviamente spero che dipenda molto dal fatto che Manning, insomma, sia passata la sua migliore stagione. Però sì, però comunque non sarà una passata, mi ripeto, sarà molto più difficile, insomma. Sì, io infatti nelle mie previsioni pre-inizio stagione, dove ho detto che avremmo finito 11-5, avevo messo una sconfitta. Anch'io. In realtà adesso cambio, nel senso, alla fine, cazzo, we don't lose in at Lambo, e quindi va al culo. Però secondo me vinciamo di poco, tipo il mio score esatto è 31-28, per cui di 3 punti così sulla fine. Vabbè, la prendiamo. Sì, ma andrebbe bene anche quello. Poi in realtà non sarebbe nemmeno questa tragedia perdere senza, ovviamente, meglio vincere, però è una partita non di conference, quindi se bisogna perdere, meglio perdere questa. Sì, esatto, se dobbiamo perdere, meglio perdere questa che un'altra. Poi tra l'altro leggevo che Kansas City è imbattuta a Lambeau Field dall'89 in poi, prima non lo so sinceramente, comunque nelle 3 volte che è venuta a Lambeau Field non ha mai perso, l'ultima volta che abbiamo giocato contro è stata nel 2011 e ci hanno rovinato la perfect season. Esatto, e Rodgers non li ha mai battuti, esatto. Una delle, mi pare che mancasse Seattle, sì. Una è la levata e l'altra era Kansas City, mi pare. Sì, e poi la terza sono i Bengals. Ah, ok, vabbè. A Super Bowl quelli, li mettiamo. Ma sì. Beh, loro hanno iniziato 2-0 anche loro, per cui non si sa. Potrebbe anche essere. Mi sto toccando, mi sto toccando. Dai. Niente, dai, dimmi il tuo di pronostico. No, non ce l'ho, sai che il pronostico non lo so. Io ho detto la sconfitta, rimango sulla sconfitta, quindi perché rimango lì. Però sì, il fatto che abbiamo vinto domenica, insomma, mi dà una grossa iniezione di fiducia. Sì, però potrebbe essere anche l'effetto hangover dalla vittoria, per cui magari sottovalutare. Vero, vero, vero, non sarebbe la prima volta. Quindi. Esatto. Non sarebbe la prima volta. Dai, secondo me vinciamo di poco, ma vinciamo. Poi, tra l'altro, non sappiamo ancora se lei si giocherà, dato che viene dato come... Oddio, non c'è stato un aggiornamento, però penso che sia ancora questionable. Penso di sì. Non è stata esclusa più ora la sua presenza. Esatto. Non sembra niente di grave, in realtà, quindi... Adams penso che non dovrebbe giocare. Esatto. Vediamo. Io sono nella merda anche per quanto riguarda il fantasy, se non gioca lei. Allora dai, facciamo così, ci aggiorniamo prossimamente. Non è assolutamente che sì. Fatta. Non ti ha insultato nessuno alla fine, avevano chiesto se c'erano degli insulti da fare. Ma oddio, Paolo qualcosa voleva dire, ma secondo me però si è trattenuto. Niente, ci aggiorniamo alla prossima. Go back go, dillo anche tu. Go back go. Beh, lo dici come me, quindi non hai imparato a dirlo meglio. No, assolutamente. Dai, grazie della chiacchierata, Matt, e ci aggiorniamo. Assolutamente. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. They really, really, really, really, really, really suck. Yes, the Bears still suck.